Corea del Sud è fase 2 e se fosse un modello, benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Here I am in central Seoul, now a place of cautious optimism as the COVID-19 epicenters moved away from this region. South Koreans went to the polling stations. They stood some distance apart, had the temperatures taken in case they were running a fever. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Buona giornata e buon venerdì anche da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo è Lontano. Con me ci sono, come ogni giorno, Antonio Tali, Lara Sesana, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. Quest'oggi Laura Faggini in assistenza e in regia c'è Peter Bescapè. 349-238-6666 è il numero per SMS e WhatsApp per porre domande o commentare il tema che vi proponiamo in quest'ultima puntata della settimana di Nessun Luogo è Lontano. Potete commentare attraverso i social, se amate Facebook, la pagina da cercare è Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24. Se preferite invece Twitter, cinguettate pure. Vi leggo, i due account sono Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Il tema che vi sottoponiamo quest'oggi è la situazione in Corea del Sud. Vi abbiamo raccontato della rielezione di Moon Jae-in, della conferma quantomeno del suo partito, ampia maggioranza parlamentare, premiato evidentemente non soltanto da un'affluenza record, ma anche da un consolidamento del Partito Democratico che non si vedeva da tempo. Segno che la buona gestione dell'emergenza Covid-19, oltre a essere un incredibile acceleratore di fragilità o nevralgie in alcuni quadranti del mondo, in altri evidentemente va a consolidare chi ha fatto bene, a consolidare anche certe linee politiche. Ma la Corea del Sud è davvero un modello da seguire? Pensate, fino a qualche settimana fa era il paese al mondo, il secondo, dopo la Cina, con più casi, con più contagi, però ha risposto in maniera efficace. Che cosa possiamo imparare dalla Corea del Sud, se c'è qualcosa che possiamo imparare, nonostante le differenze economiche, geografiche, sociali e culturali? Cosa possiamo mutuare da Seoul? In sostanza, se guardiamo a loro, possiamo immaginare la nostra fase 2. Insomma, in ultima istanza, il mondo che verrà. Velocissimo, un primo ascoltatore o ascoltatrice, mi perdonerà, al 349-238-6666. Molto netto il messaggio. Dobbiamo imparare dai migliori. La Corea del Sud docet. Aspetto i vostri commenti e le vostre domande al 349-238-6666, Facebook, Twitter. Ma adesso la prima cosa da fare, Peter, come al solito, è sfogliare i grandi dossier internazionali. La prima notizia degna di attenzione per me e per tutta la redazione di Nessun Luogo Lontano ci porta in Brasile. Vi faccio sentire una voce. No mais é agradecer a todos vocês. Muito obrigado por tudo. Foi um prazer, uma honra. Grazie infinite per tutto, è stato un piacere, un onore per me come brasiliano servire la mia nazione come ministro e anche da semplice cittadino. I miei sforzi saranno doppi nel servire il mio paese, nel servire la nazione brasiliana. Con queste parole Luis Enrique Mandetta ha chiuso la sua ultima conferenza stampa da ministro della salute in Brasile, appunto. Era questione di tempo, lo riportavano da alcuni giorni molti media internazionali, brasiliani in primis. C'erano tensioni fra il presidente Bolsonaro e il ministro. I due avevano delle visioni sull'emergenza coronavirus assolutamente divergenti. Vi abbiamo spesso raccontato anche da questi microfoni l'assoluta sottovalutazione da parte del presidente Bolsonaro di quanto grave possa essere la pandemia, questo a dispetto dei tanti casi squalo ormai, che ai noi siamo uno di quelli che ci sono in tutto il globo. Il ministro Mandetta aveva sempre cercato di mettere un freno alla leggerezza con il quale Bolsonaro stava trattando questo dossier. Per esempio, difendeva strenuamente il distanziamento sociale, mentre Bolsonaro puntava tutto e continua a puntare tutto soprattutto sui disagi, i problemi economici a cui sarà sottoposto il Brasile. Nel frattempo però la società civile si fa sentire e a San Paolo si fa sentire a suo modo. I cosiddetti Panelassos. Sono quelle proteste a colpi di pentola che hanno fatto da sottofondo a urla contro Bolsonaro, accusato di essere un assassino, un genocida per la sua politica contro il distanziamento sociale. Non è la prima volta che accade, ricorderete anche la proiezione di giganteschi slogan contro Bolsonaro, sempre a San Paolo, sembra essere la metropoli brasiliana, uno dei principali baluardi contro il presidente. I casi accertati fino adesso in Brasile sono 30.891, 1.952 i decessi, ma gli analisti hanno fortissimi timori che se Bolsonaro non cambierà idea, come già altri leader mondiali hanno fatto dopo aver sottovalutato il Covid, il bilancio si potrebbe aggravare. Andiamo in Israele perché vi abbiamo dato conto proprio ieri di quella crisi politica insanabile ed eccezionale che si sta consumando nell'importante paese che si affaccia sul Mediterraneo. Sullo sfondo c'è la possibilità di una quarta eclatante tornata elettorale nel giro di un anno. Ieri anche qui la società civile israeliana si è fatta sentire, in particolare nel centro di Tel Aviv, protestando contro Benjamin Netanyahu in una protesta che è stata ribattezzata la protesta della bandiera nera, un simbolo che viene utilizzato dai manifestanti. Anche in questo caso i manifestanti, particolarmente ligi e osservanti delle regole che ormai ci impone questa situazione, stavano a un paio di metri di distanza l'uno dall'altro. Fra le varie dichiarazioni che abbiamo trovato spulciando i media israeliani, vi segnalo queste voci che arrivano dalla piazza di Tel Aviv. I cittadini di Israele stanno mostrando oggi che la democrazia israeliana rifiuta di sottoporsi a un colpo di Stato travestito da coronavirus. Non vogliamo un governo, continua questa testimonianza, di cui il premier è accusato di corruzione, frode e abuso di potere. Vi ricordo che adesso la parola passa alla Knesset, il Parlamento israeliano avrà 21 giorni di tempo per cercare di trovare la maggioranza, 61 seggi sui 120 per poter governare e esprimere appunto un governo di unità nazionale. Allo stesso tempo si fanno frenetiche le telefonate tra Gantz e Netanyahu per cercare di trovare un accordo e, ve lo dicevo, sullo sfondo la quarta tornata elettorale temutissima sarà un caso, ma il presidente Rivlin ha stabilito nel 4 agosto, magari qualcuno è appassionato di numerologia e ci saprà dire che cosa significa anche per la Cabala, quarta tornata elettorale, 4 agosto, per un anno eccezionale in Israele. Arrivano i messaggi al 349-238-6666, tra pochissimo ve ne darò conto. Fatemi andare in Cina perché è polemica per il fatto che le autorità di Wuhan hanno rivisto al rialzo il numero totale di morti confermati per coronavirus proprio poche ore fa, hanno giunto 1290 vittime alla conta totale, quindi si arriverebbe a sfiorare circa 4000 vittime e 50000 i contagi. Secondo le autorità di Pechino le discrepanze nei dati sono, e leggo testualmente, dovute in primo luogo all'alto numero di pazienti nella fase iniziale dell'epidemia che ha sovraccaricato le strutture mediche, in secondo luogo al fatto che alcuni decessi sono avvenuti in casa ed è stato quindi difficile registrarli. Naturalmente per prevenire le critiche il regime di Pechino ha aggiunto, il funzionario ha detto che è una priorità garantire l'oggettività e la correttezza dei dati alla base delle cifre, ha detto questo funzionario, vi sono la vita e la salute pubblica generale nonché la credibilità del governo, e sostenendo che questa tempestiva revisione dei dati sarebbe una prova proprio della buona fede e della trasparenza di Pechino, cosa sulla quale alcuni analisti ovviamente, come potete immaginare, dubitano. Ultimissima pagina dei nostri dossier internazionali, è accaduto più di un giorno fa, ma ve lo segnaliamo perché non è stato facile trovare alcune conferme, ma se fosse, gli ha dato la notizia il Jerusalem Post, nonché alcune media indipendenti della rete del Kurdistan. Mercoledì scorso la Turchia avrebbe bombardato zone del Kurdistan iracheno, una notizia che è passata totalmente in sordina sui media, ripresa però dal Jerusalem Post e da alcuni canali di informazione curdi su Twitter. Se fosse vero, droni e aerei di guerra di Ankara avrebbero violato lo spazio aereo di Baghdad per mettere a segno attacchi contro il PKK e lo YPG, che sono considerati terroristi da parte del governo turco. Secondo però le fonti curde, e oltre a tentare di colpire miliziani armati, vi sarebbero state parecchie vittime civili perché sono stati colpiti dei campi profughi. Questi i nostri dossier internazionali. Adesso Peter Bescapè, dammi una mano, andiamo a Seul. Andiamo a Seul per cercare di valutare, di capire, di analizzare la risposta sudcoreana all'emergenza coronavirus. Qualche ascoltatore chiede, citando il messaggio precedente, imparare dalla Corea, imparare dai migliori, non ho capito cosa hanno fatto contro il coronavirus, così Walter. E presto detto Walter, tra pochissimo vi traccerò una sintetica, spero precisa, fotografia di quello che è accaduto. Vado invece ai vostri messaggi prima di appunto tratteggiare la situazione in Nord Corea. C'è qualcuno particolarmente scorato, evidentemente. L'unica cosa che sappiamo copiare noi italiani sono i format televisivi, Tenes, D'Alecco. Però forse è il caso, gentile ascoltatore, di provare a analizzare anche a livello globale, la pandemia lo è per definizione, quelle che possono essere meccanismi, pratiche virtuose per provare appunto ad applicarle. Dicevo, la fotografia che arriva da Seul, 10.635 casi confermati, 230 morti. Il governo dovrebbe estendere le misure di distanziamento sociale fino al 3 maggio. Secondo quanto riporta il quotidiano Chosun Libo, il ministro della salute è convinto che sia ancora troppo presto per un ritorno alla normalità totale e invita a non abbassare la guardia. Spiega che sarà possibile allentare le misure in vigore solo quando il numero di nuovi casi scenderà sotto i 30 al giorno. Quali sono le misure? Il governo continua a raccomandare di mantenere distanze di sicurezza almeno 2 metri in spazi come le chiese, che sono rimaste aperte, o le scuole. Si possono frequentare anche i parchi, sempre mantenendo la distanza. Per chi passeggia per strada, la distanza è di almeno 1 metro. Il governo ha esortato la gente a stare lontana da luoghi che favoriscono gli assembramenti, quindi chiese, karaoke, discoteche e palestre. I caffè, che sono un grande luogo di socialità per il paese, sono rimasti aperti a lungo, anche se tutti i clienti indossavano le mascherine protettive e aspettavano pazientemente in coda per poter entrare. Poi c'è stato qualche segnale discordante. La settimana scorsa il sindaco di Seul ha ordinato la chiusura di bar, locali notturni e discoteche fino al 19 aprile, decisione presa dopo che 2 cameriere in un locale nel quartiere di Gangnam, uno dei più ricchi della città, dà il nome a quel famoso pezzo pop di qualche anno fa, dicevo, 2 camerieri di un locale avevano contratto il coronavirus. A seguito del provvedimento del sindaco, nella capitale sudcoreana sono stati chiusi 400 locali, compresi gli escort bar e le discoteche per anziani. Allora, se è vero che la Corea del Sud potrebbe essere un benchmark in qualche modo, un modello, un esempio, un caso di scuola da studiare per poter mutuare delle pratiche, tra poco andremo un po' meglio nelle pieghe, abbiamo fatto un esperimento, abbiamo provato a condensare 24 ore di vita a Seul in pochissimi secondi, in una manciata di minuti. Alzate il volume, drizzate le orecchie, vi faccio vivere 24 ore a Seul con alcune voci. Queste voci sono state raccolte da Gabriele Sernani, che ringraziamo, che è fra l'altro un nostro affezionato ascoltatore pur a longitudini così distanti. Alla mattina cosa si fa? Beh, come in tutte le città, si esce di casa. La maggior parte dei condomini di Seul sono dei compound con manutenzione e sorveglianza. All'uscita incontriamo 2 portinai. Il primo si chiama Kim e ha 60 anni. E il secondo? Mi chiamo Ro, ho 65 anni, faccio il portiere anch'io. Mi lavo le mani, indosso la mascherina, sto a una certa distanza dagli altri. Anche quando mangio al ristorante mi siedo a distanza dagli altri, come è previsto dalle regole. Sì. Faccio in questa maniera. Mi chiamo Ro, ho 65 anni, faccio il portiere anch'io. Quando lavoro devo considerare una distanza di sicurezza. Ogni mattina mi controllo la febbre. Se la temperatura è normale, lavoro normalmente. Ma se così non fosse, dovrei tornare subito a casa. Mm. La vita quotidiana a Seul, che è in una sorta di fase 2, non è completamente in lockdown, una Seul che si lecca le ferite sono soprattutto economiche, oltre che un bilancio di vittime evidentemente. Vi dicevo, seguiteci perché proviamo a raccontarvi cosa significa vivere e lavorare nella capitale sudcoreana, pur con tutte le differenze culturali e sociali, forse potremo trarne una lezione. Si va al lavoro magari con i mezzi pubblici, è stata aumentata la frequenza e anche nelle metropolitane e alle fermate, di solito affollate, bisogna rispettare le distanze. Come si vive sui luoghi di lavoro di Seul? Non si è tornati a lavorare in tutti gli uffici, in molti casi si lavora ancora da casa e negli uffici aperti le misure di sicurezza in entrata e in uscita sono notevoli. Entriamo allora in un ufficio e lo facciamo con la voce di Bae Si-yeon. Sentite. Mi chiamo Bae Si-yeon, ho 30 anni e sono un'impiegata. Since the coronavirus started, Korea society is focusing on sanitation. Da quando il coronavirus è iniziato, tutta la società coreana si è concentrata sulla salute pubblica e sull'igiene. Tutti indossiamo delle mascherine e, ad esempio, se vuoi entrare in un caffè senza mascherina, ti viene completamente proibito di entrare. Caffè e ristoranti sono aperti, ma all'entrata di tutti i caffè e di tutti i ristoranti si trovano dei distributori di disinfettante. E la stessa cosa succede con i centri commerciali e ovviamente con i luoghi di lavoro. Il governo ha lanciato una campagna per la distanza sociale e quindi tuttora, laddove è possibile, a Seul si lavora da casa. So people are not trying to go to outside working at home. Le voci che arrivano da Seul ci restituiscono uno spaccato di vita quotidiana che non è normale, non è come prima, lo abbiamo sempre detto, il Covid-19 ha segnato uno spartiacque, una frattura tra quello che era prima e quello che sarà dopo, però forse la Corea del Sud ci può dare un'indicazione di come gestire il dopo. Al 349-238-6666, intanto le vostre voci, Gianluca da Jesolo. In Italia purtroppo abbiamo una linea di comando frammentata, debole, con mille attori che vanno in direzioni diverse. Spero che queste lezioni apprese, continua l'ascoltatore, siano una buona base di partenza per riprogettare il futuro del paese più bello del mondo. E naturalmente non possiamo che unirci a questo acclarato invito. C'è qualche ascoltatore che si lamenta della musica, questo è il K-pop, è un po' il baluardo della cultura pop sudcoreana, non potevamo non omaggiarlo e non farvelo ascoltare. Vi faccio ascoltare, a proposito di musica, anche com'è la vita quotidiana di Choi Soo-rin, è una musicista, ha 30 anni, per campare suona la fisarmonica. Come funziona? Cosa vuol dire essere musicisti quando si presuppone, normalmente si suona in un'orchestra? A tutti gli effetti un assembramento, no? Sentite la sua voce. Mi chiamo Choi Soo-rin, ho 30 anni. La vita è molto cambiata. Ad esempio, nel mio caso, io sono una musicista, suono la fisarmonica. Tutti gli spettacoli e le performance sono state rinviate o cancellate. Oltre a questo, fino a che la situazione del Covid-19 non cambierà, io non so come andare avanti. Molti aspetti della vita si sono complicati e quindi ora sono molto più pensierosa per il futuro. Per quanto riguarda la mia famiglia, a causa del lavoro abitiamo distanti, in città diverse, e ho cancellato gli incontri con i miei genitori, in particolare con mia madre, perché lei lavora come infermiera in un ambulatorio e a causa del virus deve lavorare anche nei fine settimana. Anche per questo vedersi è diventato molto più difficile. Per quanto riguarda la vita sociale, in metropolitana, in autobus e in tutti i luoghi di lavoro si usano le mascherine e si osserva la distanza sociale sia dentro che fuori i luoghi di lavoro, come nei ristoranti o nei bar. Si rinuncia a molti incontri con gli amici. Queste le voci che arrivano da Seul, il presupposto fondamentale per raccontare in questa puntata di Nessun Luogo Lontano qual è stata la ricetta della Corea del Sud e cosa possiamo mutuare da questa esperienza. Tra pochissimo vi farò sentire la voce di due accademici, uno da Seul, uno da Bologna, entrambi uniti dallo studio e dalla passione per questo importante paese asiatico. C'è qualcuno, Enrico per esempio, che fa un paragone ancora una volta con l'Italia. Per noi la fase 1, 2, 3 sarà sempre più problematica rispetto agli altri paesi perché abbiamo, dice testualmente, un'opposizione di governo scellerata, usa il coronavirus per fare politica, così Enrico. A risposta a questo mi sento di ricordare come molti ospiti da questi microfoni hanno, esperti di Corea del Sud, hanno spesso rimarcato, il comportamento dell'opposizione politica a Seul è stato assolutamente ligio, nel senso che si è in qualche modo immolato, ha evitato le spigolature eccessive, ha evitato di mettersi di mezzo rispetto alle politiche del governo e in nome dell'unità nazionale ha facilitato anche quelle che erano le misure che il governo di Seul voleva prendere. E dicevamo, il ruolo del governo, il presidente Moon ha riportato una vittoria, ricordiamo l'eccezionalità delle elezioni sudcoreane, e sono stati il primo grande appuntamento elettorale democratico in epoca da pandemia, con tutte le complicazioni che ci possono essere, record di affluenza, record di gradimenti per il partito del presidente. Vi faccio sentire la voce di Jae-min Lee, professore di diritto internazionale alla facoltà di legge dell'Università Internazionale di Seul. Se, come diceva Enrico, il coronavirus in Italia viene utilizzato per fare politica, ecco, che ruolo ha avuto la gestione della pandemia nella vittoria elettorale del presidente Moon? Sentite il professor Jae-min Lee. I think, as you know, the penso che la gestione dell'epidemia di coronavirus in Corea sia stata gestita piuttosto bene, grazie alle misure messe in atto dal governo. All'inizio la Corea ha faticato molto, ma con il passare del tempo si è visto che il governo stava gestendo la situazione molto bene. Credo che la gestione dell'epidemia da parte del governo abbia avuto un impatto positivo sull'esito delle elezioni parlamentari. Penso che sia stato questo il fattore cruciale del risultato delle elezioni. I think that was the pivotal factor in the outcome of the general election of Korea. Il commento e l'analisi di Jae-min Lee, insegna diritto internazionale alla facoltà di legge, Università Internazionale di Seul. In questa puntata in nessun luogo alterneremo, diciamo, dalla cattedra, la voce di accademici, a quella invece di cittadini, di lavoratori che quotidianamente consumano le scarpe per le strade di Seul. In sostanza viene da chiedere a Jae-min Lee, gli elettori dopo la gestione o durante la gestione del coronavirus hanno premiato il presidente, sentite. Well, because as in other countries as well. Come è successo in altri paesi, penso che in una situazione di emergenza le persone tendano a premiare la stabilità. A questo proposito, probabilmente, i cittadini si aspettano che l'attuale amministrazione prosegua con le politiche in atto. E questa sembra la migliore opzione possibile per avere stabilità nelle loro vite e nelle loro attività economiche. Penso sia per questo che la maggioranza degli elettori ha votato per il governo in carica. Come la pandemia irrompe nella grande politica internazionale, può essere una leva politica utilizzata sapientemente da alcuni governi, per altri casi può essere motivo di forte imbarazzo. Sto pensando alla notizia che vi davamo in apertura di un presidente brasiliano, Bolsonaro, che va ai ferri corti col suo ministro della salute, qualcuno vocifera, sostanzialmente lo ha gentilmente accompagnato alla porta, non ha potuto far altro che dimettersi. La sottostima e la sottovalutazione dell'epidemia di Covid-19 ha portato a un imbarazzo politico forte, così come anche la società e i cittadini brasiliani hanno sottolineato. 349-238-6666, ci sono un po' di ascoltatori. Rispondendo all'ascoltatore, un nuovo ascoltatore risponde all'ascoltatore che se l'opposizione in Italia è scellerata, anche la maggioranza lo è nell'attaccare la regione più colpita dal Covid. Adesso io, gentili ascoltatrici e ascoltatori, capisco che, come dire, fare un parallelo con l'Italia sia molto facile, sia dovuto, nel senso che noi cercheremo di apprendere delle lezioni, se è possibile, dalla Corea del Sud, però vi invito a stare sul dibattito, sulla missione di Nessun Luogo Lontano, cioè di stare su al di fuori dei confini italiani. Allora facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come stanno andando le borse e poi la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo è lontano. Ancora Allora, buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. In questa ultima puntata della settimana di Nessun Luogo è Lontano prendiamo le mosse dalla strepitoso appuntamento elettorale. Dico strepitoso perché si è votato in Corea del Sud durante l'epidemia di Covid-19 e con un'affluenza record, rispettando in maniera assoluta e molto rigida tutte le regole che ci sono imposte da questa emergenza, con un Moon Jae-in che si ritrova corroborato grazie allo splendido risultato del suo partito democratico e evidentemente dalla buona gestione, secondo gli elettori, dell'epidemia di Covid-19. 349-238-6666, come vi dicevo, in questa puntata alterneremo, diciamo, tra la cattedra e le strade di Seul. C'è un ascoltatore che al 349-238-6666 insomma si abbraccia, per così dire, una sorta di visione complottista. Sembra molto strano un virus così pericoloso si sia diffuso dalla sera alla mattina così improvvisamente. La faccenda puzza tanto di bruciato, eppure insomma ci sembra di aver raccontato in questi mesi, in queste settimane, come si è propagato. È molto contagioso, quindi è stata sono bastate poche settimane perché praticamente nessun paese al mondo, se non erro solo le isole Faroe, sono state risparmiate da questa pandemia. Qualcun altro torna sulla questione brasiliana. Oggi ho capito che siamo oltre che sotto dittatura anche con stampa di regime. A San Paolo in Brasile sono scesi in 200.000 nelle strade per boicottare la quarantena imposta. Nessuna TV italiana e nessun giornale ne parla, hanno paura di emulazioni. Pinochet, un dilettante al confronto, mi sembra onestamente una presa di posizione un pochino forte. Io credo onestamente che nessuno parli della situazione brasiliana, ma per un generale disinteresse dei media italiani rispetto alle questioni di attualità internazionali, di affari esteri. Non mi sembra che sia una grandissima novità. Detto ciò, fatemi tornare a Seul a proposito, e lo facciamo anche con la voce e la competenza del professor Antonio Fiori. Insegna politica e istituzioni della Corea e dell'Asia orientale all'Università di Bologna. Professor Fiori, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Intanto poi chiudiamo la parentesi brasiliana. Come dicevo a inizio puntata e come ribadisce un ascoltatore, a San Paolo hanno protestato dai balconi, non si sono radunati in piazza, o almeno così le immagini hanno provato. Allora, professor Fiori, mi risponda con uno slogan, intanto poi proviamo a entrare nelle pieghe di questo complesso ragionamento. La Corea del Sud può essere per noi un valido esempio di come si gestisce la fase 1 e la fase 2 dell'epidemia Covid-19? Beh, credo possa essere un modello per tutto il mondo. La reazione che la Corea ha avuto alla diffusione del virus è stata esemplare. I numeri che lei ha ricordato sono lì a evidenziare qual è stata la reazione della Corea. Devo dire, per amor di verità, che anche la Corea viene da alcune esperienze, segnatamente la SARS nel 2003 e la MERS nel 2012-2013, che l'hanno resa sicuramente più forte nella reazione a eventi di questo genere. Sì. Nelle parole del professor Fiori, lo ricordo, insegna politica e istituzioni della Corea e dell'Asia orientale all'Università di Bologna, mi sembra di poter intendere che, ahi noi, alcune emergenze, alcune tragedie ci aiutano a capire come comportarsi in futuro. E fra pochissimo vi farò ascoltare anche una storia che forse farà sorridere, perché ha a che fare con le feci e con campionamento a tappeti. Pensate, risale a un'epoca un po' più lontana, però se vogliamo è stata la prima grande emergenza che la Corea del Sud ha dovuto affrontare. Fatemi tornare alla voce di Jaemin Lee, è un collega del professor Fiori, si occupa di diritto internazionale, ma stando a Seul è un attento osservatore di ciò che sta accadendo. L'impatto sull'economia coreana è stato molto molto grosso, però vi faccio sentire quali sono i provvedimenti che il governo sta mettendo in atto in questo momento. La voce di Jaemin Lee, professore di diritto internazionale di Seul. Well, yes, there are many types of measures being contemplated. Most notably, there are sono stati previsti diversi strumenti. I più importanti sono due programmi di finanziamento di emergenza messi a disposizione delle piccole e medie imprese che sono state messe in difficoltà dalla crisi. Inoltre c'è un programma per l'erogazione di uno stipendio alle famiglie. Questo significa che il 70% delle famiglie in Corea ha ricevuto uno stipendio dal governo. Tutte queste misure sono state pensate per aiutare le persone e le aziende a superare la crisi. ride out the crisis at the moment. Questa è la voce di Jaemin Lee, diritto internazionale, Università Internazionale di Seoul. La vostra voce al 349-238-6666. Penso in Asia, nei paesi maturi come Corea, Giappone, Hong Kong, hanno le idee più chiare, scrive un ascoltatore, su come reagire. La SARS ha fatto scuola, la loro lezione l'hanno già imparata. Vedremo se sapranno dare risposte ancora più mirate. Professor Fiori, non è solo questo, però non è solo fare tesoro della storia che diventa maestra di vita contemporanea. Quali sono gli aspetti, secondo lei, più rilevanti nella gestione del Covid? Quello economico, comunque un'economia che va bene, anche se noi dopo il Covid hanno dei dati che sono preoccupanti, è il tipo di società, è l'opposizione, come dicevamo, che è stata molto collaborativa con il governo. Qual è il fattore X che è risultato vincente, secondo lei? Ma le ripeto, guardi, il fattore X secondo me è stata quella che in inglese si chiamerebbe responsiveness, cioè l'immediata reazione a una sollecitazione esterna di questo genere. E politicamente non è necessariamente vero che l'opposizione non abbia dato battaglia a Moon. All'inizio, con la diffusione del virus, l'opposizione addirittura aveva chiesto l'impeachment del presidente, quindi non è necessariamente vero che non ci sia stato uno scontro politico. Sì. La forza della Corea è che risulta un paese assolutamente molto coeso nel momento in cui le tragedie cominciano a figurarsi in maniera sovraesposta. L'ascoltatore diceva bene, io l'ho detto anche prima, la SARS e la MERS hanno fatto scuola. Se volete c'è anche un altro episodio. Alcuni anni fa naufragò purtroppo un battello che aveva a bordo, naufragò naturalmente per errore umano, un battello che aveva a bordo alcuni teenager che andavano in gita, morirono all'incirca 300 persone e la reazione del governo fu assolutamente nulla. Io ricordo che il battello ci naufragò in televisione davanti agli occhi. Da questo tipo di eventi la Corea normalmente impara moltissimo. La voce del professor Fiori, le vostre voci al 349-238-6666 ci restituiscono anche di realtà industriali. Un ascoltatore scrive: mio figlio lavora alla Hyundai e sta lavorando da casa già da un mese e mezzo. Circa 10 giorni fa, quando non si trovavano mascherine, la ditta ha mandato a casa i dipendenti 10 mascherine made in Germany. Così un ascoltatore, vi invito anche voi a dare il contributo in questa pagina di Nessun Luogo Lontano, 349-238-6666, così come sta facendo il professor Fiori, che studia e legge con attenzione gli eventi della Corea e anche dell'Asia orientale, insegna politica e istituzioni di quelle aree all'Università di Bologna. Allora, professore, visto che a questo punto abbiamo un po' pescato nel passato quelli che sono stati grandi eventi o tragedie o emergenze che hanno in qualche modo forgiato la capacità di risposta da parte di Seoul, questa storia forse farà un po' sorridere i più, perché parla di escrementi ed risale più o meno agli anni 60. Sentite. Quella del Covid-19 non è la prima sfida sanitaria per la Corea del Sud. Negli anni 60 il paese era ancora prevalentemente agricolo e molto povero, e uno dei principali problemi sanitari era la diffusione di parassiti intestinali. Nel 1969 il governo lanciò un programma nazionale per effettuare test a tappeto su tutti i bambini delle scuole elementari. Due volte l'anno gli scolari dovevano portare a scuola un sacchetto di carta contenente un campione delle proprie feci e consegnarlo agli insegnanti. Questi campioni venivano poi raccolti ed analizzati in modo da identificare i bambini che soffrivano per la presenza dei parassiti e curarli. La campagna nelle scuole è proseguita fino agli anni 90, ma i livelli di contagio iniziarono a diminuire da subito in maniera significativa. Le immagini delle file di bambini che consegnavano i campioni ai loro insegnanti e quelle dei tecnici che le analizzavano al microscopio sono diventate parte integrante della storia della Corea, una delle tappe che ha segnato la modernizzazione del paese. Quei bambini cresciuti tra gli anni 70 e 80 che hanno imparato, a volte con riluttanza, ad accettare i test governativi per i parassiti, sono oggi gli adulti che si mettono tranquillamente in fila per essere testati per il coronavirus. Andando a ripescare tra le pieghe della storia si trovano degli altri casi di scuola che forse ci spiegano la maggiore capacità di risposta di Seul. Tra pochissimo continueremo la discussione col professor Antonio Fiori, Università di Bologna, ma anche con la voce di Jaemin Lee, professore dell'Università Internazionale di Seul, e naturalmente vi farò camminare ancora, vi prenderò per mano virtualmente, già che non si può fare, le voci che arrivano da Seul. Adesso la viabilità a proposito di strade, poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939 oppure visita il sito azienda.eolo.it. Nessun luogo è lontano. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. L'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano continua a indagare quello che è il caso della Corea del Sud, un caso virtuoso per gestione della pandemia, premiato alle urne con il partito del presidente che viene apprezzato, con un'affluenza record nonostante le difficoltà logistiche. Una pagina di Nessun Luogo Lontano, devo dire, che pare apprezzata quantomeno il tema da voi ascoltatori, che in tanti state scrivendo al 349-238-6666. Emilio, voi credete alle statistiche della Cina e della Corea, ma per piacere. Professor Antonio Fiori, peraltro qualcun altro invece via WhatsApp, sempre al 349-238-6666, scrive: ma perché non parlate di Taiwan? Caso record, casi ancora minori rispetto alla Corea del Sud. Peraltro mi permetto di aggiungere, su Taiwan, popolazione la metà sostanzialmente, in più è un'isola, è vero, aggiunge l'ascoltatore o ascoltatrice, non fa parte dell'OMS, questo per il veto della Cina che da sempre considera fumo negli occhi l'esistenza di quell'isola a sé stante. Professor Fiori, perché bisogna credere alle statistiche della Corea del Sud e non quelle di Pechino? Mi aiuti a rispondere. Ma innanzitutto perché la Corea è una democrazia consolidata, e quindi non capisco perché non bisognerebbe credere all'undicesima potenza economica mondiale, nonché una democrazia consolidata, come dicevo. La Corea è una democrazia dal 1987, non scherziamo, sì. Non c'è dal punto di vista politico nessun tipo di assonanza con la Repubblica Popolare Cinese. Bisogna crederli, e gli stanno credendo tutti, probabilmente, anche perché la Corea dimostra con i fatti di essere riuscita a reagire al virus. Non si spiegherebbe se no perché personaggi e paesi come il presidente americano Trump, come il presidente uzbeko, come vari presidenti di vari paesi americani, o se vogliamo anche Bonovox, si siano rivolti alla Corea per ottenere per i propri paesi un aiuto in termini di equipaggiamento, di materiali. Sì. Soltanto questa settimana partiranno 600.000 kit indirizzati agli Stati Uniti d'America. Sì. Sì. La risposta sta anche in questo genere di aiuti. Sì. E peraltro, professor Fiori, è utile anche ricordare quella che è stata la prassi immediatamente attuata fin dall'inizio di questa epidemia, con una serie di tamponi fatti a tappeto, le misure di distanziamento prese immediatamente. D'altra parte la Cina è vicina e, come dire, si sta anche attenti, no, a quelli che sono casi di scuola già vissuti. Invece forse in alcuni casi alcuni leader del mondo occidentale hanno assolutamente sottostimato la lezione, come se questo strano virus, finché non lo provi in prima persona, non ci credi. Ha questa strana cosa anche un risvolto politico, non soltanto personale, ovviamente l'invisibilità, noi tutti evidentemente non passiamo la giornata sbirciando dalle finestre di una terapia intensiva o di una casa di riposo, e quindi questa cosa non ci tocca. Quando poi ci tocca, ne assaggiamo la gravità e la drammaticità. Ecco, la politica internazionale sembra abbia avuto un riflesso di questo tipo. 349-238-6666, c'è qualcuno dice: c'è chi contesta i numeri tedeschi, si figuri, a noi mancano i leader, non bisogna credere alla Corea, perché altrimenti dovremmo ammettere che sono stati più bravi di noi, e ciò non è possibile. L'Italia è il paese più bello del mondo, non sopporto più quelli che la pensano così. Luca, che affida questo messaggio la sua frustrazione. Fatemi tornare però dal professor Antonio Fiori, perché in ultima istanza volevo toccare un capitolo che tocca, come dire, interessa forse un po' noi tutti, perché c'è il capitolo scolastico. Il sistema scolastico in questo momento è un po' in impasse in Corea del Sud, e c'è un esame importantissimo che è condizio sine qua non per poi accedere a una vita professionale di alto livello, università prestigiose, eccetera. Questa cosa sta creando nei ragazzini sudcoreani un immenso sconforto. Questo forse è uno dei pochi fallimenti del governo di Seoul nella gestione del Covid. Probabilmente sì, le scuole, il sistema scolastico coreano è organizzato su due semestri, quindi è diverso rispetto al nostro. Il secondo semestre sarebbe dovuto cominciare agli inizi di marzo, c'è stato un progressivo differimento, poi le scuole sono state dichiarate chiuse e i miei colleghi di qualunque ordine stanno, come noi, insegnando online, sostanzialmente in maniera telematica. C'è questo problema relativo agli esami di ammissione universitaria, e se lo vogliamo definire l'unico fallimento, un sistema brillante di reazione. Gli esami sono stati differiti, quindi non sono stati annullati, perché ciò creerebbe un sostanziale impasse sociale in Corea del Sud. Sono d'altronde anche abbastanza sicuro del fatto che riusciranno a trovare un metodo per superare questo problema. Ecco, peraltro, professor Fiori, c'è un esame temutissimo, dovrebbe venire a dicembre, si chiama Sunung, se mi corregga se sbaglio sì. La pronuncia. È un esame che per noi è distantissimo dalle nostre culture, dalla nostra metodologia, dura 7-8 ore e sostanzialmente determina il futuro universitario dei ragazzi. E quindi questo momento di teleinsegnamento, eccetera, sta diventando una ferita che alcuni studenti hanno paura di non riuscire a guarire in funzione di questo temutissimo esame, che alla fine indirizza completamente la loro vita. Forse è un caso di, come dire, non voglio esagerare, mancanza di democrazia didattica, però è un sistema particolarmente meritocratico e particolarmente spietato. Ricorda il Giappone, forse, in alcuni aspetti? Assolutamente, probabilmente anche peggio del Giappone. La questione sostanziale è che l'organizzazione in ogni ambito della Corea del Sud è un'organizzazione verticistica. Se si ambisce al lavoro migliore, bisogna entrare nelle università migliori. Per entrare alle università migliori bisogna piazzarsi nei primi posti dell'esame a cui lei faceva riferimento. Sì, sì. È un esame che lo dico proprio scegliendo le parole, è un esame che miete vittime, nel senso che quelli sono i mesi in cui la Corea registra un innalzamento nel tasso di suicidi spaventoso, in uno dei paesi al mondo con il più alto tasso di suicidi. Quindi è un esame molto selettivo, ma che è vero che in passato accadeva più che adesso, ma è un esame che indirizza fortemente ad una carriera che può essere una carriera di successo, una carriera mediocre o una carriera fallimentare per i ragazzi che ambiscono a entrare nelle università migliori o le second tier. Sì, e poi diventa carriera evidentemente lavorativa migliore, le più grosse aziende, quelle multinazionali, quindi garantirsi un futuro evidentemente diverso. Grazie mille al professor Antonio Fiori, lo ricordo, insegna politica e istituzioni della Corea e dell'Asia orientale all'Università di Bologna, ci ha dato anche uno spaccato di che cosa voglia dire adesso la frustrazione di tanti studenti che da qui a dicembre devono studiare a casa evidentemente, magari con fratellini più piccoli, ma per loro quell'appuntamento è rilevante, è vitale per la vita, come purtroppo appunto ci raccontava il professor Fiori. Grazie mille professore, alla prossima, buon lavoro, buona giornata. Grazie, arrivederci. Fatemi sentire ancora alcune voci da Seul, proviamo a alleggerire nonostante il tema sia piuttosto tosto. La voce è quella di Pak, è un pasticcere, ha 28 anni e vabbè, segue evidentemente tutte quelle che sono le regole più stringenti, e però confessa una cosa, che in questo periodo di emergenza gli affari non vanno poi così male, sentite. Il mio nome è Pak, ho 28 anni, lavoro in un caffè pasticceria. Personalmente indosso la mascherina e mi lavo spesso le mani. Ma rispetto le regole. La sera non vado al pub e non mi incontro con nessuno. Sto parecchio a casa a riposarmi. Il fatturato della mia pasticceria caffè non va male. Non ho la sensazione che le entrate siano diminuite. Anche perché ci sono le aziende di consegna a domicilio che sono sempre più attive. E questo è molto conveniente per noi. Non è un fornaio. Allora, dalla strada di Seul, dai lavori quotidiani, da questa giornata, abbiamo detto 24 ore condensate in pochi secondi, in poche pillole, di nuovo alla cattedra, all'Accademia, quella di Jaemin Lee, professore di diritto internazionale. L'attuale crisi coreana sembra per dimensioni simili a quelle degli anni 30 del secolo scorso. Questa immagine ci è stata restituita da tanti economisti, da tanti governanti nel mondo. Il popolo coreano è spaventato o ha delle speranze per il futuro? Perché in ultima istanza, se è vero che la società coreana ha ben reagito, il governo coreano ha ben reagito, il punto di domanda è sulla fase 3. Quanta speranza c'è? Sentite Jaemin Lee. I will put it this way. I think in Korea at least people are not scared. Beh, mettiamola in questo modo. In Corea, almeno, la gente non è spaventata. Sembra che la maggior parte della gente creda che questo è l'evento più significativo e importante dopo la crisi finanziaria che nel 1998 ha colpito l'Asia. La crisi del 1998 costituisce un punto di svolta fondamentale per tutta la nazione e molte persone ricordano ancora quei momenti dolorosi del 98. Molti coreani oggi convengono sul fatto che questa crisi del 2020 è così peculiare. Sarà grave e dannosa esattamente come la crisi del 98, ma speriamo che la situazione migliori velocemente e che riusciremo a superare le difficoltà del momento. Tuttavia, il contesto non è promettente come vorremmo sperare. La vera grande differenza rispetto al 1998 è che, nonostante in quel periodo la Corea e altre nazioni asiatiche stessero soffrendo, grazie alle esportazioni, la Corea è riuscita a tirarsi fuori dalla recessione. Ma adesso l'intera comunità globale sta lottando, quindi per la Corea è molto complesso trovare una via d'uscita attraverso l'export. È questa la grande differenza. Insomma, in definitiva direi che i coreani non sono spaventati, ma sono sicuramente preoccupati per la situazione che si sta svolgendo sia in casa che a livello globale. Tutti speriamo di riuscire a superare la crisi il più velocemente possibile. Worried about the ongoing situation in Korea and globally, and we just hope that we can overcome the crisis as soon as possible. Agli ordini, Peter Bescapesto, anch'io agli ordini, lancio i titoli di coda e ringraziamenti a voi per essere stati all'ascolto, a tutta la squadra di Nessun Luogo. Appuntamento è domani, ore 10 col meglio di, e lunedì, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Un saluto da Giampaolo Musumeci.